L'educazione sesso-affettiva che in molti stati europei è obbligatoria e che nel nostro paese, con la resistenza di tutti i governi, in realtà non lo è mai diventata, è la possibilità, anzi l'obbligo etico e di formazione che lo Stato dovrebbe dare a ragazzi e ragazze, dalla materna fino in realtà al compimento dei 18 anni, un'educazione che non è l'educazione alla sessualità biologica, ma è l'educazione alle relazioni, al rispetto, al consenso, al rispetto in realtà delle identità, al rispetto in realtà della diversità, è molto più complicata. Non è l'educazione di biologia dove si spiega meccanicamente come avviene in realtà, come funzionano gli apparati sessuali o come avviene in realtà un rapporto sessuale o la fecondazione. Non è questa. L'educazione sesso-affettiva è qualcosa di più importante e peraltro, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo la Convenzione di Istanbul e secondo il diritto in realtà europeo e internazionale, è l'unico vero strumento che noi abbiamo per interrompere i femminicidi e sradicare la violenza di genere, che è peraltro il tema vero per cui queste persone non vogliono in realtà l'educazione sesso-affettiva, perché loro non accettano proprio il termine genere. Tieni presente che Fratelli d'Italia e la Lega hanno chiesto ai loro parlamentari europei nel 2017-2018, non mi ricordo quanto, che il Parlamento europeo non ratificasse la Convenzione di Istanbul, che nella Sì. Convenzione di Istanbul appunto si parla di educazione di genere, di violenza di genere, e siccome per loro il mondo è binario, esiste soltanto l'uomo e la donna, e secondo la loro impostazione, che è l'impostazione poi dei movimenti antiscelta, che sono al governo e che sono in realtà quelli che in qualche modo sostengono questa maggioranza, a cui questa maggioranza deve dare conto, non tanti movimenti italiani quanto i movimenti internazionali, come quelli che sostengono anche Trump, Orban o altri, in realtà loro invece vogliono quasi una eterosessualità obbligatoria, un mondo binario, un mondo peraltro con una divisione dei ruoli ben precisa, dove la donna peraltro sta a casa e fa figli, il suo compito è quello. Questo emendamento arriva in un DDL in cui c'è il tema, oltretutto un altro tema che rischia di essere un combinato disposto piuttosto, come dire, devastante per la scuola, che è quello del consenso informato. Quindi si vogliono proprio limitare le possibilità di insegnamento. Certo, perché anche qui loro iniziano come cavallo, diciamo, di Troia dall'educazione sesso-affettiva, pensando su questo di trovare il consenso, partendo dal presupposto che queste cose si educano in famiglia, come dice Valditara, no? È la famiglia che ci pensa. La verità è che lo strumento del consenso informato preventivo, una volta che entrerà nell'ordinamento giuridico, sarà invece uno strumento censorio potenzialmente applicabile a tutti i temi cosiddetti etici, tant'è che a conferma di questa cosa, che ad esempio la mia associazione, io diciamo da anni, e che diciamo anche un po' controcorrente, perché molte associazioni, molte in realtà anche molto famose, battono soltanto sull'educazione sessoaffettiva. Sasso, che era uno dei promotori di una delle leggi, dei progetti di legge sul consenso informato preventivo, a giugno ha depositato alla Camera dei Deputati una risoluzione per dire che il consenso informato preventivo va esteso anche alle attività di natura religiosa, perché secondo lui ci sarebbe un rischio islamizzazione in Italia, e quindi in realtà il consenso informato preventivo andrebbe richiesto alle famiglie, quindi la possibilità di esonerare anche rispetto a tutte quelle attività che la scuola in qualche modo può predisporre per il dialogo interreligioso, per la conoscenza delle altre confessioni, per l'attraversamento di altri luoghi confessionali, addirittura stabilendo che nelle scuole possono entrare soltanto quelle confessioni che hanno delle convenzioni bilaterali con lo Stato. E noi sappiamo bene che queste convenzioni bilaterali con lo Stato ce l'hanno pochissime confessioni religiose e non ce l'hanno, ad esempio, le comunità islamiche. Leggevo sull'Espresso che in queste ore, nonostante la legge non sia stata approvata, però avviene una forma di autocensura, cioè alcune insegnanti stanno cancellando i progetti di educazione sessuo-affettiva. Questo è, come Allora, dire, un rischio di questo clima? questi erano dei rischi che noi avevamo già messo in conto, che questi strumenti in qualche modo, oltre a permettere una censura, avrebbero condizionato le programmazioni, avrebbero agito sul condizionamento dei comportamenti e della coprogrammazione. Detto questo, in realtà io invito tutte le scuole e tutti i genitori che hanno docenti che ritirano i progetti, in realtà a manifestare che questo è un atto illecito, perché il consenso informato preventivo e il divieto di affrontare questi argomenti in realtà alla primaria, alle medie, ancora non è legge, e finché non è legge in realtà non si possono cancellare, e che in secondo luogo esistono delle procedure, nel senso bisogna capire se questi progetti sono stati in realtà validati dal collegio docente, sono già stati in realtà validati anche nel PTOF, c'è tutta una serie di passaggi che attengono sostengono proprio il funzionamento educativo della scuola e quindi anche l'esercizio democratico, no, del confronto degli organi collegiali, che va in qualche modo attivato, perché anche qui il singolo docente che ritira il progetto è come il singolo genitore che non vuole che il figlio in qualche modo faccia questa lezione. Detto questo, i docenti non andrebbero fatti sentire soli in questo momento, bisognerebbe per questo ricreare quella partecipazione e quelle comunità vere e fattive, ed è per questo che invito chiunque sappia scuole che stanno già ritirando i progetti ad attivare dei processi di partecipazione, di dialogo costruttivi, uno perché ancora non è legge, due perché in realtà, ribadisco, ci sono dei margini anche sul consenso informato preventivo, perché ad esempio l'esclusione alla primaria e alle medie è un'esclusione con soggetti esterni, anche la legge ha dei buchi, non è specificato ad esempio che non lo possono fare i docenti.